la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, benvenuti alla versione di Oscar da Oscar Giannino. Oggi che è martedì 10 di dicembre, 16:37 primi 25 secondi, restiamo anche oggi sui temi delle proteste di giornata, il secondo giorno dei blocchi, dei presidi, delle manifestazioni in moltissime parti d'Italia, con qualche blocco ferroviario e anche manifestazioni sulle autostrade organizzate dai Forconi, e tentiamo di capire un altro pezzo di questo movimento che ha dato una sterzata al tipo di protesta tosta, per così dire, contro le politiche economiche, il governo, la politica fiscale. Sono diverse le organizzazioni, avrete capito leggendo in questi giorni i giornali, che oltre ai Forconi nelle diverse regioni cooperano e convergono su questo tipo di protesta molto molto dura. Tra questi c'è un pezzo dell'autotrasporto, come evidente, oltre alla Life, che ci tengo a sottolineare, in Veneto, e per la parte della piccola impresa, anch'essa coinvolta in queste manifestazioni. Per ricordare a chi non avesse sentito i giornali radio, oggi abbiamo ancora molte manifestazioni in corso, ancora di una certa forza, e con forza dell'ordine, che hanno di nuovo fronteggiato a Torino i manifestanti. Le abbiamo a Roma, invece la scelta è stata quella di un presidio fisso, a Milano anche c'è un presidio fisso in Piazzale Loreto, la manifestazione più importante in Friuli Venezia Giulia invece a Monfalcone, con un corteo di alcune migliaia di persone che è arrivato fino a Fincantieri. A Palermo traffico congestionato, a Napoli c'è stato quasi uno scontro con poliziotti e finanzieri a Piazza Carlo III a Napoli per il volantinaggio, e poi ancora la stazione ferroviaria di Oneglia a Imperia, a Cerignola, in Puglia, a Modena, bloccata la superstrada per un paio d'ore da Torino all'aeroporto di Caselle, blocchi anche davanti all'aeroporto di Orio al Serio a Bergamo, e diversi blocchi intorno a Brescia, Varese, Como, Gravellona, Toce. Ecco, con chi cerchiamo di farvi capire, farci spiegare meglio le posizioni che animano queste proteste molto molto duro, intorno alle quali c'è anche poi un riflesso condizionato che scatta sui media, lo avete visto. L'unica protesta buona, anche quella di antagonisti, sembra quella di sinistra, questa che non è di sinistra mai su temi come il fisco. A molti non piace il dibattito in corso, se sia di destra, di estrema destra, quanto infiltrata, però risposte concrete alla strage fiscale che continua io non ne vedo. Allora è con noi per spiegare come e perché la sua organizzazione sia attivissimamente coinvolta nei blocchi e nelle manifestazioni, Maurizio Longo, che è il segretario generale dell'Associazione Autotrasportatori Trasporto Unito. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Longo. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Allora, lei è stato tosto ieri perché ha rilasciato dichiarazioni in cui diceva al ministro Lupi e al sottosegretario ai trasporti che in buona sostanza avevano sposato quella parte del mondo degli autotrasportatori che non protesta, non avevano capito e avevano sminuito la portata della protesta, e in più dissiperebbero anche 330, lei ha fatto questa cifra, milioni del contribuente. Ci spiega meglio? Sì, che poi è il principio che lega tutta la protesta, cioè la distanza netta che esiste tra i rappresentanti e i rappresentati. È l'esempio lampante, cioè la nostra esperienza è questa. Noi, in sintesi, dopo 4 mesi di confronto con il governo, abbiamo presentato una proposta sostenendo che cosa? Che l'autotrasporto italiano può uscire dalla crisi con una modifica di 4 disposizioni normative e di 2 interventi funzionali per la Sicilia e la Sardegna. Dall'altra parte c'era un'altra piattaforma con altre richieste di tutte le altre associazioni, in cui chiedevano 330 milioni e diciamo una riforma a loro favore, ovviamente, della ristruzione dell'albo degli autotrasportatori, diciamo una istituzione che vive da 30 anni e che è obsoleta, e poi eventualmente dirò perché. In sostanza noi abbiamo detto: se ci date le norme e consentite alle imprese di aumentare la capacità contrattuale con i nostri committenti, noi i 330 milioni non sappiamo che farcene, perché vogliamo i soldi dal mercato e non dallo Stato. E in invece proprio di fronte a queste due piattaforme. Tant'è che lei diceva ieri guarda, nella dichiarazione, quei 330 milioni utilizzateli invece di far pagare la seconda rata prima casa all'IMU, visto che il governo non c'ha le risorse. Lei lo diceva così proprio. Proprio per questo motivo abbiamo proposto delle cose a costo zero, non vedo perché deve vincere quella parte di quella casta di mezzo che invece qui invece conviene l'affidamento di questi importi e soprattutto i poteri all'interno di questo albo degli eurosportatori, che anche questo è alimentato per 8 milioni dal versamento delle quote cui sono costrette le imprese di eurosporto, di altrettanti soldi della collettività. E siccome è uno strumento obsoleto, perché l'Unione Europea impone l'iscrizione a un registro elettronico nazionale, noi diciamo perché deve vivere l'albo se dobbiamo iscriverci anche al REN, che è questo appunto registro europeo, a finire che dobbiamo pagare due cose. Insomma, il vecchio carrozzone che invece resta in piedi e a cui le altre associazioni sono abbastanza affezionate. Esatto, un'impresa per 100 pezzi, non so, trattori e semirimorchi paga 4.400 euro l'anno, ecco, tanto per dare una dimensione. Senta, posso chiederle di dirigenti delle altre associazioni dell'autotrasporto, quelli che appunto invece apprezzano i 330 milioni del governo, per così dire, che hanno detto che voi li avete minacciati, è vero o non è vero? A noi non risulta, certo è che la disperazione in cui si trovano molti imprenditori, lavoratori del settore, può arrivare a questo conflitto. Io mi auguro e spero che siano soltanto dicerie, ma laddove fosse accaduto evidentemente è un segno di disperazione, perché le imprese di autotrasporto, cioè l'autotrasporto italiano, è consapevole della sua forza e non riesce a spiegarsi l'impresa, non so qualsiasi, del perché è in grossa difficoltà, perché non ottiene i pagamenti secondo le leggi, perché non ottiene quei vantaggi che pure sono scritti nelle leggi, ma siccome queste leggi sono scritte per non funzionare, di fatto se la prende poi con chi li rappresenta in qualche modo, chi rappresenta quella organizzazione di riferimento. Teniamo conto che tutte le associazioni dell'autotrasporto in Italia, fuorché la nostra, sono collegate a confederazioni che rappresentano anche altri interessi e quindi si può definire come interessi dei nostri committenti, quindi qui nasce una sorta di conflitto, no? Allora quelle cose non si ottengono perché quelle confederazioni non vogliono o perché è il governo che non le vuol dare. Per fare un esempio tecnico, in Francia chi non paga i servizi di autotrasporto a 30 giorni si becca una denuncia penale in modo automatico, in Italia invece i pagamenti ai servizi di autotrasporto arrivano a 120-180 giorni. E del resto, se il più dell'organizzazione dell'autotrasporto appartiene a confederazioni in cui ci sono esattamente quelli che non pagano e che naturalmente hanno la maggioranza di iscritti nella confederazione, si capisce al volo anche da dove discenda la diversa tolleranza, sbaglio o no? Ha perfettamente ragione. Allora noi ci fermiamo un secondo, ci fermiamo un minuto esattamente per sapere com'è la situazione della scorrevolezza del traffico e torniamo poi con Maurizio Longo, il segretario generale dell'Associazione Autotrasportatori Trasporto Unito, per parlare dei blocchi della manifestazione, del perché e del per come. E le dico subito, quando torniamo le chiedo di rispondere ai nostri ascoltatori che dicono: noi abbiamo l'impressione, molti di loro che mandano gli sms, che questa è una massa brutale, è una massa di gente pilotata, dietro c'è qualche cosa di politico e non richiesto, molto attente come vorrebbero sembrare. Quindi le chiedo subito di rispondere a questo. Strade adesso. La versione di Oscar. Eccoci tornati qua, 16:48 e 24 secondi, molti sms da ascoltatori, entrata e uscita a Portogruaro della 28, blocco per manifestazione, ci dice Mauro da Venezia, un altro ascoltatore: io non partecipo ma sono molto solidale, l'invito a non fermarsi. Un altro ascoltatore critico invece dice: è evidente che secondo voi sono sempre in Ottava a creare danni. No, io questo non l'ho mai detto, né quando si parlava di Ottava né qua, la mia è una posizione per la quale i danni alle persone e alle cose vanno assolutamente evitati. Ho tentato la settimana scorsa di dirvi che però questo fenomeno si sarebbe affermato con una certa forza, perché si avvertiva nell'aria e secondo me molta stampa non lo aveva capito, e quindi tento di spiegarlo, di farlo spiegare da chi lo anima. Un altro ascoltatore: perché non dite che sono normali cittadini e nessuno degli altri cittadini è contro o protesta contro la stragrande maggioranza dei blocchi? Un altro ci manda un sms: sottolineate che praticamente non sono registrate violenze, ieri i telegiornali hanno insistito invece molto solo su questo aspetto. Allora Longo, ripeto, Longo è il segretario dell'associazione Trasporto Unito, che è impegnato in queste proteste. A chi ha dei dubbi, dice che siete manovrati, che dentro c'è la destra estrema eccetera eccetera, cosa rispondete? È vero per alcune parti, non è vero, sbagliano, che dice? Ma intanto è chiaro che siamo tutti legati dalla protesta, che può essere condivisibile eccetera, ma io preciserei intanto che la nostra è un'organizzazione di rappresentanza e non politica. Diciamo che si sono incrociate le proteste. Perché si sono incrociate? Se si va a vedere nella commissione garanzia scioperi, le azioni di fermo nazionale dei trasporti hanno una loro regola, cioè 25 giorni prima eccetera, e quindi si sono combinate non solo nella data, ma perché nel gruppo delle associazioni di protesta, in questo caso di non nostre, ma ci sono due associazioni di autotrasportatori che fanno capo e sono aderenti alla nostra organizzazione. In questo modo si è incrociata questa protesta e capisco bene la confusione che si è determinata sulle richieste. Io credo che non ci sia qualcuno che piloti, io credo che nasca proprio dal basso, perché ho visto, conosco, ho parlato anche con loro, insomma conosco queste persone che sono spinte da persone, cioè c'è una sorta di atteggiamento genuino. Se poi ci sono anche soggetti, amici di altri soggetti, quindi di altre forze politiche più estreme che sono subentrati, questo è evidente, insomma, che si sono ammucchiati tutti, diciamo, nella protesta ma non nella proposta. Quindi di conseguenza qualcuno la può leggere anche come un'azione pilotata, ma a mio giudizio non lo è, e quando qualcuno mi dice preoccupato io condanno questi atteggiamenti violenti, ma ripeto, allora, quello che li conosco io. Le leggo alcuni altri messaggi di nostri ascoltatori, che sono divisi in due, perché c'è chi dice, per esempio Gianluca, chiede a Longo perché fa sciopero solo quando Berlusconi è all'opposizione, sono curioso. Un altro, ancora più netto, dice: sono strumentalizzati politicamente coloro che stanno bloccando il paese in questi due giorni, dietro c'è il burattinaio di Arcore. Altri invece scrivono: bravo, giusto, difenderli, i giornali non spiegano abbastanza e non sostengono. Un altro dice ancora una volta: Grillo ha visto in anticipo le cose e ha ragione nel dire che se non prendeva tanti voti lui queste cose sarebbero state ancora più volente e prima, che è uno dei motivi per cui Grillo infatti dice attente che sta scoppiando l'incendio, e non condanna ovviamente, ma l'aveva prevista questa protesta dal basso. Allora le chiedo di rispondere a questo. Sentiamo rapidissimamente Agostino che ci sta chiamando da Salerno. Prego Agostino. Va bene, grazie. No, io dicevo questo, è un problema che molti non ne parlano, non do ragione a nessuno, ma gli autotrasportatori il gasolio lo devono pagare a 30 giorni, l'autofficina a 30 giorni, l'autostrada la pagano, però visto e considerate che loro trasportano per lo più a questi grandi centri commerciali, faccio i nomi, tanto sotto quelli là, Esselunga, Conad, Sisa, tutti quanti. Questi qua, ma porca miseria, avete mai visto i clienti che vanno al supermercato che fanno credito? Pagano in contanti. Certo. E questi autotrasportatori benedetti ricevono i loro pagamenti a 3-4 mesi, ma dico io, ma che scherziamo? Allora, Agostino, l'ha detto chiaro, sappiamo che c'è stata una norma per normalizzare i tempi di pagamenti tra privati, quelli dello Stato, col cacchio che pagano i debiti, siamo a appena 10 miliardi su 100, naturalmente il potere nei confronti delle grandi imprese delle catene di distribuzione nei confronti del piccolo trasportatore resta intatto, quindi sono segnalate tantissime disomogeneità rispetto naturalmente ai 30 giorni di pagamento. Torniamo a Maurizio Longo, ha sentito i nostri ascoltatori, sono divisi in due, c'è chi dice no, voi scioperate perché sei a Berlusconi, e altri che dicono invece l'esatto opposto. Chi dei due ha ragione, a torto secondo lei? Ma io intanto nella mia storia professionale ho manifestato con tutti i tipi di governo, insomma l'ultimo fermo l'abbiamo fatto nel governo Monti e precedentemente con il governo Prodi e poi ancora prima con il governo Berlusconi anche, quindi non è un problema di contestazione chi è al governo, è il problema di una categoria che non riesce da anni a trovare una quadratura rispetto a interventi normativi e disciplinatori del settore che ci consentano di avere un rapporto con la committenza buono da un punto di vista della tenuta finanziaria, perché il rischio, sai qual è? È che giustamente, come pensano in Francia, ma insomma la nostra competizione si scarica sulla strada dove ci sono altri utenti, ecco perché c'è un problema di sicurezza che deve essere rispettato, ecco perché l'anello più debole della filiera produttiva, qual è appunto l'autotrasporto, deve avere delle garanzie da un punto di vista normativo e di diritti, perché adesso io non vorrei entrare nel tecnico. No, infatti, anche perché ho email lungo, io le devo dire che il tempo è finito, continueremo nei prossimi giorni anche sulle altre puntate di approfondimento, trasmissioni di approfondimento giornalistico Radio 24 per farvi capire meglio questo fenomeno. Continuate con la radio, appuntamento con me a domani, grazie Longo.